assolutamente io volete prendo a 1,50 euro. Ma questa domanda la stavo per mettere nel carrello e leggo 9 euro. Detto, ma stiamo scherzando, detto, ma non è che c'è sbagliata il prezzo, ma però se quello c'è il prezzo qui è quello. Ah, ok, vabbè, ce n'è una, gliel'ho buttata dentro il frigo, ho detto, ma stiamo scherzando, si compra a 1,50 euro, ma sono 2 euro, la testina d'agnello, qua le mettete a 9 euro. Perché te l'ha dato al prezzo dell'agnello, capito? Se l'ha dato l'ubrico di Ragnoni. È normale, ce la fa pagare come se tu prendessi il caso d'agnello. Sì, infatti già è rimasta lì, non è che, cioè, sono sì, ma non sono a un certo punto. A buttarmi in via c'è sempre il tempo in sud, ma stiamo scherzando. Non ha sempre ben carino. No, no, avrei voluto però la faccia da Marco, comprando una cosa. Marco va da LD, io lo so, faccio lo sputtato. Lido. No, no, tutte e tre, Lidl, MD ed Eurospin, in base alle offerte. Ah, ti farà correggere i volanti? Ma MD non è da manco più volantino, ti dà un foglio che non va bene manco a potersi sedere, il resto è online. Vabbè, mi scarico il PDF, però per esempio mamma vuole vedere roba cartacea, ho detto, ma pazienza. E comunque è aumentato tutto, sì. Oppure un prodotto, l'hanno fatto alla Lonfiazza, alcuni discount, e un prodotto ti costava tot, però c'è meno quantità dentro, cioè per non far vedere che hanno aumentato il prezzo, che adesso anziché 100 grammi di fettina, di carne, quello che è, il prezzo è rimasto uguale, per te ne hanno 75 grammi, capito? La furbata. Sì, lo fanno spesso con le bottigliane quelle cose. Invece con l'olio di utili, è da 75 invece che da lì. Sì, sì, hanno ridotto le confezioni di alcune cose, adesso non ti posso fare l'esempio vero e proprio, ma così anche certe bottiglie sono un po' più piccole. E l'olio d'oliva, cioè, io una volta con quei prezzi di adesso ci compravi Bertolli, Dante, tutti quegli oli pregiati, adesso ci compri un olio sì, extravergine, però da discount. Prezzi folli, vabbè, infatti la gente sta lamentando. Cioè, se doveva spendere 50 euro, ho detto, ma anche un signore l'altro giorno è uscito, dice, vabbè, alla moglie, ha detto, cosa abbiamo comprato? 50 euro, ci sono quattro cose in croce nel carrello, non abbiamo comprato niente, 50 euro, che voglio ricordare che erano 100.000 lire, vabbè, tu mi dici, 20 anni più fa, però siamo lì. 100.000 lire non hai comprato niente, hai comprato due fesserie in croce. Sì, sì, Marco, hai ragione, non è che, però purtroppo non possiamo fare un paragone lira a euro, perché noi vabbè l'abbiamo vissuta, io molte volte, anche parlando con mio figlio che ha 18 anni così, mi dice, devo comprare le scarpe, certo, 200 euro, 200 euro, caspita un buon prezzo, mi fa, 200 euro un buon prezzo, ma io tornando indietro, 400.000 lire in scarpe non le ho mai spese. Oh, ma infatti, e comunque a parte le cose, sì, adesso è cambiato anche il potere d'acquisto, si spera, però certe cose hanno fatto delle ronfiate, hanno raddoppiato i prezzi, non so se per ignoranza o per volontà, ti faccio l'esempio terra a terra, che faccio un iso, è un sempre, nel 2000 in Piazza Tola 3 magliette 10.000 lire. Tre magliette da mettere sotto la camicia, no? Magliette volgari, girocollo, 10.000 lire. Come entra l'euro? Tre magliette 10 euro, che erano 19.936 lire. Ecco, e praticamente era doppiato. Sì, perché hanno raddoppiato le imprese, hanno raddoppiato le paghe e le pensioni. Sì, vabbè, non hai raddoppiato tutto, però certi, anche Dolciano avevano fatto certe cose, prima 7.900 lire un articolo, poi dopo l'euro 7,90 euro, il doppio, tutto è aumentato tranne le pensioni e gli stipendi eccetera. Va bene, immagina se ci fosse, non sia mai un tempo di guerra, ti fanno pagare le cose con l'oro, col sangue. È un casotto, ma poi vabbè, come tutti io molte volte faccio dei lavori extra e caspita, quando ti chiedi di fare preventivo, incazza, fatelo fare, cioè in base a ciò che ti sto facendo anche lo sconto, in base alla vita, è questo, no? Se trovi di meglio fatelo fare, effettivamente purtroppo la gente dice cavolo, 100 euro sono 100 euro, però con 100 euro oggi tu vicino non ci compri niente. Però poi, vedi, tu fai il preventivo da professionista, no? Allora loro per risparmiare, convinti di risparmiare, chiamano un CPTO che te lo fa magari per la metà della metà, però poi fa un lavoro da CPTO, tipo vedi roba di idraulica, roba di anche di muratura, eccetera. Quindi convinti di risparmiare, in realtà non hanno risparmiato niente perché magari da lì a due anni mi va la tutto. Scusa, qui non c'era Gianni, ma poi va a finire che richiamano un professionista, non dicono neanche a me, chiamano un professionista, ma chi te l'ha fatto questo lavoro? Adesso il prezzo va a aumentare, anziché 100 sono 150, perché io devo rompere quello che ha fatto quel cipitto, come lo chiami tu, e devo riprendere tutto il lavoro a capo, capito? Vai Gianni, che mi allontano un secondo a aprire la porta. Vabbè. Io... solito quando chiamo gli operai quello che mi chiedono li do, la verità, non faccio mai studi né niente, ma lo faccio fare il lavoro, pure quello che mi chiedono li do, se poi sono onesti, se no se la pigliano in culo, ma se no accetto quelle 50 euro in più che li do, che mi fanno le ricole poche. Certo che se uno può risparmiare e avere una persona che sappia lavorare è meglio, ma... E lì hai ragione Gianni, per carità, poi ci va anche sulla fiducia, perché io conosco Gianni, sa fare quello, anziché chiamare un altro, lo chiama Gianni, e giustamente il rispetto che mi fa gli do, perché so che sa fare il suo lavoro, non so di fare storie, ma io parlo della gente che non ti conosce Gianni. Gli fai un preventivo e stai lì, tanto qua lo sappiamo benissimo, non è 100 euro uno non si muove da casa, no, oggi, ma tu fai 100 euro più il materiale, giustamente, perché mica devo pagare io il materiale, io ti faccio il lavoro, ma il materiale te lo fai tu. E il materiale lasciamo fare, è aumentato al 200%. Io avanza su tutto, non puoi più fare nulla. Sì, ma se si conserva più qualche cosa a fine mese, ma che cosa hai vissuto, poi di colpo ti viene una spesa, buh, e tutti i gatti pura. Te ne racconto una che mi è successa giusto la settimana scorsa, ho la caldaia a gas che forse avrò due mesi, nuova, tre mesi, quattro mesi, non mi ricordo, comunque è nuova, non ha fatto sei mesi di cose neanche. Metto le batterie, funziona bene, ok, molto bene. Dopo quattro giorni le batterie nuove della Dura, ce le nuove, non mi funziona la caldaia. Porca miseria, ho detto, ma sicuramente saranno le batterie che me l'hanno venute scariche. Vabbè, spendo altri 5 euro, compro le batterie nuove, le rimetto e non funziona. Non funziona, porca miseria. Il tecnico è uno di quelli che c'è un fraioli, di proprio se non funziona, l'ho chiamato un amico mio. E gli ho detto, funziona, è funzionato 4 giorni, dopodiché si è bloccato, ho detto, ma tutti qua l'alimentazione. L'alimentazione, ho detto, ho comprato le batterie nuove e non fa. No, ma ti sta succedendo qualche cosa, guarda i fili, perché forse è solo quello. Allora, non avrò fatto la faccia, mi sono messo e detto, non deve vincere, io ho preso. Ho controllato i fili già, praticamente c'era un morsetto, tocca non tocca, quei mammuti ce ne presenti, qui è innesso, che praticamente non era inserito, sì, ma sicuramente non faceva contatto bene. Allora ho preso, l'ho messo, ho provato l'acqua calda e ho acceso la scintilla ed è partita. Questo è quello che è successo a me. Ma se tu chiami un professionista, chiamiamolo così, che non meno di 50 euro solo per la chiamata, primo. Secondo, magari ti gira attorno e ti dice tutto questo e quest'altro, lui quando arriva a casa tua non meno di 150 euro ti deve prendere. Se uno è onesto, fa come ha fatto questo amico qui. Sì, è così. Senti, ricordi che te l'avevo detto quella volta che mi sei trattato il lavello? Ci ho chiamato a quello lì che con la pompa ha buttato l'aria, non c'è riuscito, se ne sta guardando e mi ha detto mi deve dare 90 euro, ma 90 euro perché cosa, se non mi ha risolto il problema? Ah, ma io l'intervento l'ho fatto, la pompa l'ho usata e ha voluto 90 euro, capito? Poi è venuto questo mio amico, gli ha messo un liquido, l'ha alzato appena appena di atmosfere, gli ha dato un colpo, si è detto blu blu blu e si è sturato. Per dirvi, non era manco idraulico, c'era scritto su internet idraulica eccetera eccetera, ma non era manco idraulico, visto non è già via vari travagli. Questo intervento l'ho fatto a casa di mia madre che abita vicino a te, forse prima di quando c'è stato il tentativo, che ti avevo detto che se volevi venivo col compressore che era già pronto, però il liquido gliel'ho messo già, io ho dato spinta, l'ho fatto per tre volte consecutive, alla fine mi sono rotto le palle e ho detto beh, allora il asciugante è, e gli ho dato l'atmosfera, gli ho dato 5-6 atmosfere anziché 2-3. Sono abbastanza 5 stili, ne avevo 8. Ho visto che non ha sollevato il tappo della luce, però l'acqua poi l'ha mandata, è perché si blocca, si fa una sorta di tappo, capito? Ho fatto scendere l'acqua, ho riprovato, ho dato l'altra soffiata e è andata bene. Lo so, sono cose che, io avevo anche la pompa dall'azienda dove siamo noi, abbiamo anche la pompa per fare queste cose qua, però ho preferito farlo con il compressore da 50 litri. Io, guarda, la Sidra, mentre vedo, era un prodotto che si chiamava Ferrari, adesso non so se ce l'hanno ancora, perché io sono andato due volte e non era arrivato. Ma questo prodotto che si chiama Ferrari, le metti un pochino, lo fa, aspetti, devi metterti i guanti per metterlo, perché è potentissimo, aspetti un paio di secondi, poi fai scendere l'acqua calda e poi con la pompa gli dai la pompata e ti sblocca subito, come ha fatto quel mio amico. Ha messo questo qua, questo Ferrari, una roba, poi mi ha detto compratelo perché ogni tanto te lo butti, di modo che non gli dia modo di bloccarsi dei tubi, non ne mettere molto perché se no ti sciogli i tubi, devi aspettare pochi secondi per buttare subito l'acqua calda perché è corrosivo, capito? Però ti blocca tutto. È come il Niagara degli anni 70, una cosa veramente pericolosa, è idrossido di sodio praticamente già, è una base fortissima, solo che i vecchi tubi li corrodeva, alcuni tubi, e quindi bisogna usarlo con cautela. Piuttosto volevo dire, ma la sonda non la usino, non la usano più, quella specie di cosa che giri, di metallo, quella specie di spiralina di metallo, praticamente noi abbiamo dalla vasca, abbiamo tolto un po' di sedimenti, oppure un tappo fatto di residui di sapone, di grasso, di peli e di tutt'altro, l'ha proprio tirato. Anche se tu che sei peloso, hai intasato tutto. Certo, ma andiamo, direi, la tua paragallone. Scusate un attimino, mi devo allontanare. Ok, ti lascio, sentiamo. La tua paragallone, se mangiata, direi. Sì, poi quel cavolo di coso deve essere, lo stavo andando al bambino, non era fissato bene, mi ha dato un pezzettino piccolino, ne fa drubbiato in terra, vai in ora a mano, vai, quello dove c'è il seggiolino del bambino. E c'è caduto tutto in terra? Vabbè, adesso sto facendo il riso. Vabbè, quello lì tu, qualche cosa deve mangiare, ma forse era proprio un destino, dai, che non dovesse mangiarla quella roba, è troppo pesante, tanto di notte non fa danni a quelle cose, hanno uno stomacchino molto delicato, i bambini, non danno queste cose qua, specialmente di notte è ancora peggio. Marco, comunque è tutta un'altra cosa che il Niagara, io ne ho provato Niagara, idraulico liquido, niente da fare, solo con quello. E poi la molla, quella che dici tu, la usano ancora, perché l'ha usato quel mio amico, l'ha entrata dentro, l'ha fatta girare, poi ha buttato quel liquido e poi ha dato la compatta. Cappa, sì, il Niagara, allora il Niagara, vabbè, io l'ho visto usare a nonno anni 70, però se all'epoca fosse più concentrato, certe cose erano fatte molto più blande, ma faceva paura a vedersi, tu mi versavi questa specie di granella sottile, sembrava una sabbia, mettevi l'acqua bollente, poi tappavi con uno straccio bagnato e sentivi il casino di questa roba che faceva forza, che ribolliva proprio, infatti dovevi metterti anche guanti, tutto quello che serviva. Se ti arrivava uno schizzo negli occhi, guai. E sì, quella cosa lì a spirale ce l'abbiamo tuttora qua, e tu devi vedere le placche, il sapone per esempio, anche quello del, tipo il sapone della lavatrice, no? Le placche che crea il sapone lungo le tubature sembrano placche di cemento, già, cemento, durissime, ceramica sembrava. Io non ne uso da tanto tempo di quadro in polvere. Da Zava, lo scarico del condominio dove lavoravo io si intasava tutto quanto, entrava l'acqua nello stancariche, perché l'acqua così l'acqua fognaria entrava nel montacarichi e allagava tutto, non si poteva usare, dovevamo bloccare il montacarichi, che era tutto in ferro appunto giù, immaginati. E quando tiravi sulla pompa c'era tutto un detersivo attaccato al galleggiante, per quello che non lo faceva salire, capito? Gli faceva il peso e lo faceva scendere. Ega, oh, ma bella la storia del tipo, non mi deve 90 euro, ma per cosa te li devo dare i 90 euro? Per pigliarmi il palo gu? Non me lo dovete darmi, perché stava esistendo, lei me lo deve dare, io ho fatto il lavoro. Che lavoro hai fatto, scusa, mi ha chiamato il principale, ce la fai o vengo io? E lui ha detto, no, no, tranquillo, adesso ci provo di nuovo, Dopo l'ho rinnovata, si è arreso, ho chiamato un amico mio, mi ha cambiato un tubo che si stava deteriorando, mi ha sturato tutto, gli ho chiesto quanto era, 80 euro, che dunque era 80 euro anche a me, però lui mi ha chiamato pure un tubo, capito? Sì, per questo di soffiare aria, sì, fino a un certo punto riesce a sbloccare, ma se sono sedimenti, come ti ho detto io, non puoi soffiare quanto vuoi, ma non escono, bisogna tirarli fuori. È tipo calcare, si forma tipo una pietra. Sì, sì, esatto, bravo, una pietra, sembra tipo porcellana o cemento, una cosa allucinante. E lo so. Poi ragazzi bucinerà più avanti che si cose, fa calendare. Quando nel condominio se c'era quella panerina che entrava tutta l'acqua nel montacarichi, che dovevamo bloccare, non potevamo lavorare perché il magazzino era sotto e il negozio sopra e dovevamo portare sulla roba col carrello sopra e non potevi usarlo, come facevi? Comunque io di quello lì non ne ho usato più di quello in polvere, da molti anni che non lo uso più. Anche il più buono, te l'ho detto qua, però devi fare in fretta a buttarmi da qua a casa, perché se no divaglia tutto. Quello lì è il migliore che c'è, me l'ha detto l'idraulica, si chiama Ferrari, e lo vedo la Siderlet, però ultimamente non ce l'avevano più, non lo so se ce l'hanno adesso ancora. No, stavo parlando del detersivo, Io il detersivo in polvere sono molti anni che non lo uso più, perché anche in casa ho letto fatture, facendo di casino. E chi ne usa più il polvere? Io non uso lo stesso, ma le tubature si intasano lo stesso. Quando tu lavi i piatti, per dire, è preferibile prima di lavarli passare uno scottes, togliere la roba unta che c'hanno, è preferibile consumare lo scottes piuttosto che intasare i lavandini. Io li passo lo scottes, li faccio quasi puliti, poi li passo detersivo e li lavo. Però se tu li lasci con la crania che c'hanno, quell'olio, quella roba lì, quello è che rovina i tubi, che si attacca la tubazione, pari così ma si attacca le pareti. Lo so, però quello in polvere rovinava molto le pareti del coso, come si dice, dei tubi, proprio formava delle cose allucinanti. È un casino, vabbè, con gli anni che passano, tutta la roba che scende, anche se tu non vuoi, magari la roba piccola scende, anche se tu c'hai io c'ho per dire la gratta, e la roba, quella grossa non passa, però chi sa meno ne passano a te. Anche io ce l'ho, ma non è che mi abbia creato tantissimi problemi. Vabbè, se uno usa le accortezze, come ti sto dicendo io, ne ha sempre di meno di problemi. Se butto tutto quanto nella lavello, cazzo, tutta la spurcisa va a finire lì. Dopo un po' di tempo ti si intasa tutto. Perché solo la butto io? Che cosa? se c'è, se è piantato, lo devi pulire con lo scottex, no? Sì, lo butto in gabinetto, però la roba grossa, non la butto nel lavandino. Sì, no, già, mamma mia. In America sai cosa c'hanno? Quei lavandini che tu puoi buttare tutto, anche tutte le bucce delle vele, tutto quanto, c'è una specie di ventola che macina tutto e la fa scendere nella fossa. Sì, anche io sono all'avanguardia. Vediamo se il riso ha cucinato, cosa ne dici, Gabriele? Lo vuoi il riso? Oh, il caro mi sta facendo. Oh, il caro, un abbraccio piccolino. Guarda, sagoma. Sono qua, eh? Avanti. No, ho avvisato che sono rientrato, che ero furio a vedere. Dal canto che c'è anche l'acqua della piscina è completamente verde, poi che mi dire. Se vuole cambiata. No, non vuole cambiata, ci vuole, ho aumentato il pH e poi messo l'antialga. Andare, già sono messo a girare il motore con pH plus. E ciò di prodotti ci sono. Sì, ora. Io vado a vedere se è pronto, almeno tu dovevi mangiare Gabriele, va, che purtroppo me ne fa la drubbiata in terra, invece che non è appicciato bene con il seggiolino, Vabbè, buon prossimato. No, tu vedi, no. vabbè, ma è successo pure allo zio che non l'ha liato, una di ne ha parato da rugoso. Era destino che non dovesse mangiare quella roba. Un pezzettino mi aveva fatto assaggiare. Vabbè, dai, non fa niente. No, ma lui mangia tutto oramai. È un giovanotto, vero? Saluta. Saluta, Gabriele. È sempre del bagognoso, se vede. Vabbè. Adesso vedo un po' se cotta. Do il riso, li do. Bene. Sto usando il Cobra, vuol dire, Antu? Sì, si sto usando il Cobra. Come si è tornato adesso c'è una radio forte, va bene. Sembra che vada. L'ho regolato bene. Sì, già va bene. Ma già tu non ce lo vedi così. Sì, quello lì era il mio. Quello che c'è Antu era il mio. Poi l'ho usato, l'ho venuto e l'ha girato un po' e poi è andato a tutto. No, va bene la radio, mi piace. È che mi sembra che non ha la cosa, le mancano le bande o l'FM, non mi ricordo. FM ce l'ha, e gli mancano le bande, gli mancano. Però non è perfetto l'apparecchio. Chiattino ne aveva voluto di comprarselo, che era bello come estetica, però mancavano le bande e ne se l'aveva preso i ricordi. Sì, ma lo volevo prendere anche io. Per la vita lo volevo prendere anche io, però poi ci mancava qualcosa, vedi, le bande. E quindi l'ho optato per altre cose. Che poi, vabbè, come senti che è bellissimo, a me piace. C'è un manopolone bellissimo, la colorazione, sembra un apparecchio HF. Vabbè, dai, io vi saluto, devo portare giù il cane, già tardi non me ne ero accorto. Ci sentiamo ragazzi, statemi tutti bene e buona serata, dai, buona continuazione. Ciao, ce la risentiamo, dai. Io vado a vedere se è pronto il riso per Gabriele. Ciao a tutti. E comunque sia, così col tuo microfono esce bene, funziona bene. Ok, ciao. Ok, va bene. Ciao Gianni, buona passeggiata, vai. Che ci riascolta le prossimine. Ciao Antonio, buon proseguo, buona carica. Saluta, dai un bacio alla grinchellina. Non so se c'è ancora qualcuno, vediamo un po', se no. Marco, ci sei? Eia, io vista l'ora vado a inventarmi qualcosa per cena. Volevo fare l'insalata di riso, ma mi manca proprio il condiriso. Col caldo io mi sono tappato in casa tra ieri e oggi, perché veramente lo soffro troppo. mi invento qualcos'altro, dai. Ciao Gianni, buona passeggiata Vulcane, ciao Antonio, buona cena, buon tutto. E Tino, idem, compattate. Andale, sì, no, anche io adesso mi faccio uno stato da penna tricare, poi, no, io mangio un pochino più tardi. Va bene, dai, ci sentiamo alle prossime, ciao Marco, ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti, ciao.